Di dire il saluto cordiale a tutti gli intervenuti. Vedo degli affezionati, vero, o persone direttamente abitanti in questa casa per ufficio. Vedo anche ospiti che da tanto tempo qui non si vedevano e sono reso consapevole da questo. Particolare visto Don Burgalassi dopo oltre 20 anni che non avevo incontrato e ancora ricordo al vivo la sua posizione di allora, i suoi meriti che nel frattempo sono andati veramente crescendo. Ecco, mi rendo consapevole che l'incontro di oggi ha una sua rilevanza che va al di là di quei confini relativamente modesti in cui si era posto da principio, quasi come un incontro preparatorio al convegno indetto per il mese di maggio su questa tematica sociologia e teologia di fronte al futuro. Perché io ci sento dentro e vedo confortato dalle presenze una occasione che finalmente si realizza. Di un voto che il nostro istituto ha non da oggi. Sono 10 anni che noi abbiamo enunciato e formulato il programma di un contatto più diretto con la sociologia e proprio in vista della facoltà sociologica che ha caratterizzato e ancora oggi in larga misura caratterizza il mondo universitario di Trento. E dichiaratamente ho fatto riguardare apposta per questo anche i verbali del comitato scientifico del nostro istituto dell'84, 85, 86. Questo voto era stato espresso e riespresso, al punto tale da indire anche l'assegnazione di una o due borse di studio che veramente attivassero questo tramite. La povertà di offerte pervenuta in quell'occasione ci ha costretti per forza a soprassedere, ma il desiderio e il voto è rimasto vivo e direi che è andato, anzi diventando più consapevole e più intenso man mano che gli anni passavano. Io sono oggi più convinto che mai della necessità di questo contatto e di questo scambio culturale. E sono felice di questa giornata perché mi dà il segno che qui effettivamente qualche cosa sta camminando in questo senso. Vero? Con un vantaggio che è reciproco, con la necessità di un'integrazione che diventa sempre più evidente, sia per parte della sociologia, così mi immagino, non essendo dentro nel mestiere. E per parte della teologia o delle scienze religiose, così lo sento. Mi basta ricordare qualcuna delle pubblicazioni che tra l'altro sono richiamate, riassunte anche nel quaderno presentato per questo workshop di oggi, vero? Ricordo, io tutte non le conosco, ma mi basta solo un riferimento al mondo spirituale di Eugen Wieser, no? Di Glaubensgeschichtliche Wende. La svolta in cui la storia della fede sta muovendosi nei nostri giorni, oppure di Glaubensprognose, la prognosi che è lecito o doveroso fare a proposito dell'indirizzo o del punto d'arrivo, ovvero del mondo della fede in questi nostri tempi. Non c'è dubbio che volendo ragionare di queste cose, dobbiamo assolutamente aprirci a una considerazione delle cose che il metodo della ricerca sociologica lo attivi in pieno. Ecco, e dico con grandissima convinzione, io saluto questa occasione che finalmente è andata maturando. Me ne dà prova il modo molto preciso e accurato con cui il convegno di maggio si va preparando e con cui già questo incontro è stato approfondito sia nelle persone che sono state contattate, nei professori che sono stati pregati di partecipare, sia nella considerazione accurata e approfondita dei temi, no? E tutto questo è stato possibile, bisogna pur dirlo e dichiararlo chiaramente, grazie alla collaborazione di Don Giuseppe Capraro, che da qualche mese è in casa nostra e parte integrante della nostra ricerca e del nostro lavoro, e che, dico la verità, sento di ringraziare decisamente per l'operosità, per l'assiduità, per l'attività spirituale intensissima che egli è andato esplicando proprio in questi mesi. Io sugli inizi gli avevo raccomandato assai di coltivare la dimensione teologica, di far molto caso del pilastro che sta al di qua di tutto questo dialogo, per evitare un essere risucchiati unilaterali nel campo della sociologia in modo assolutamente prevalente. Io ho l'impressione che questa raccomandazione non ho più motivo di fargliela, perché egli stesso in certo qual modo questa duplice valenza, questa apertura in due dimensioni del discorso ce la testimonia largamente, e io in questo li sono veramente, sento di doverlo largamente riconoscere. Ammiro anche la ricchezza delle segnalazioni bibliografiche, in gran parte recenti, molte portano l'anno 92, 93, insomma. Anche questo fa parte di questo taglio del discorso, no? Che è assolutamente necessario, cioè la attualità, la volontà di guardare molto chiaramente al mondo in cui noi stiamo vivendo, la ricerca di capirlo da dentro, che non è tanto semplice, la necessità di evitare di accontentarsi di luoghi comuni. E questo può accadere anche ai sociologi quando parlano di teologia o di materia sacramentale o di disciplinamento ecclesiastico, eccetera, di presumere che questo sia tu per tutti chiaro, mentre da parte nostra sappiamo quanto è complesso e quanto è necessario venga approfondito e capito in tutta la sua complessità, no? E altrettanto vale per noi, naturalmente, accostandosi a questo mondo di cose. Io non ho altro da dire se non augurare che la giornata sia veramente feconda. Secondo consuetudine, in casa nostra, la libertà di pensiero e di coscienza è non occorre neanche dirlo, ecco, è regola naturale, no? Per parte mia devo solo scusarmi se il pomeriggio dovrò assentarmi per un impegno che mi hanno affibbiato senza che io volessi, di una relazione sulla storia della Chiesa di Trento al Centro Culturale Antonio Rosmini, che mi dicono anche molto frequentato in quella serie di incontri che c'è e alla quale non posso assolutamente sottrarmi. E quindi chiedo fin d'ora venia a voi se dovrò limitare la mia presenza a questa mattina. Invece questa mattina resto e partecipo molto volentieri. Per il pomeriggio fin d'ora delego l'amico e collega Don Franco De Marchi, anche per parte dell'Istituto di Scienze Religiose, a presiedere, a guidare e anche a interpretare dunque i lavori e a interpretare anche il mio sentimento, che lui già ben conosce, e lo ringrazio anche di aver assunto questa parte. Detto questo, io dal lato tecnico sono puro uditore e quindi consegno il discorso al coordinatore Don Giuseppe, a Don Franco De Marchi, vero, a ciò che il tutto venga guidato per il meglio, e non ho altro che da porgere i migliori auguri a tutti di un lieto e fecondo lavoro. Grazie. Saluto. Ecco. Io devo rivolgere ai partecipanti a questo convegno il saluto dei sociologi di Trento. Merita il plauso più sincero l'iniziativa di questo istituto di scienze religiose di convocare insieme teologi e sociologi per affrontare lo studio di un problema di comune interesse. Con sollievo si riscontra che sono ormai trascorsi i tempi che da un'informazione abborracciata e distorta della scienza sociologica si ricavavano progetti ingenui di palingenesi, fiduciosi in un'arma spuntata come la contestazione, talmente insensata da far dire da molti pulpiti che due sono le grandi visioni del mondo, quante volte l'ho sentito, parallele e contrapposte, quella teologica e quella sociologica. Discorsi di quel tempo. I sociologi di Trento si sono ben liberati da un pezzo, da ipoteche ideologiche anacronistiche del 68. Non tutti sono pronti al dialogo, ma indubbiamente tutti guardano al dialogo con curiosità. Vicendevoli riserve non possono mancare e servono a stimolare la riflessione autocritica, perché ambedue questi ambiti disciplinari sono ormai così vasti, densi di prodotti, ricchi di problemi, che difficilmente un teologo, ovvero un sociologo, possono asserire di sapere davvero dominare tutta la loro materia. Se poco si conosce il proprio campo, immaginiamo quantomeno ancora si conosca il campo di una scienza diversa. Oggi vogliamo avviare un dialogo che ci aiuti a trovare analogie elementari in base alle quali costruire qualche solido consenso vicendevole. Il dossier che il professor Capraro ci presenta per incentivarci al dialogo è carico di informazioni e ci prova che il problema del futuro della religione, del cristianesimo, della Chiesa, non è emarginato né sottovalutato nell'ambiente sociologico, e ci prova anche che nell'ambito teologico ci si rende ben conto che la sociologia, sia come ricerca empirica, sia come teoria generale, può gettare luce su temi che le sono familiari. Faccio delle esemplificazioni rapidissime. Fra rivelazione carismatica, fra messaggio evangelico e comunicazione, fra comunità di fedeli e processi di aggregazione, fra diaspora e trasferimento, fra fondamentalismo e chiusura sociale, fra clero e leadership, si sono tanti aspetti di convergenza che non si può affrontare più separatamente ignorando il punto di vista della controparte. Il tema prescelto in questo convegno, quel futuro che getta lo sguardo molto oltre il postmoderno. Per moltissimi di noi ormai non è più immaginabile come una ripetizione del passato, secondo l'antico effato nihil novi sub sole, caro ai fondamentalisti allergici ai cambiamenti, ma neppure inevitabile trionfo della ragione, come piaceva ai primi protagonisti della sociologia. Chi parla con tanta sicurezza di un prossimo deserto religioso sulla base di statistiche pur metodologicamente perfette, se vogliamo, ma affidate a quadri, a receipts, di items che lasciano perplessi. Ignora, per esempio, che Lyotard è stato precorso da Max Weber, quando costui seppe fare un posto imprescindibile in sociologia ad un tema che era usuale in teologia, il carisma. Se l'etimo carisma veniva a lui da Paolo di Tarso, il suo contenuto era già stato valorizzato un decennio prima nella ricostruzione storica di un grande storico tedesco, Eduard Meyer. L'irruzione di imprevedibili carismi è cosa storicamente più che documentata, ma il come, quando, dove e quale angoscia esprimono e interpretino è tutto misterioso. Eppure la misteriosità non può disarmarci e indurci a equiparare il futuro a sogno e la logica del pensiero induttivo a recit, a narrazione. Tantomeno ci riesce di rassegnarci a tale disfatta intellettuale che è funerale delle previsioni ed è palude delle ipotesi quando si è educati a interpretare il mondo come calvario su cui a pochi passi di distanza morte atroce e splendida risurrezione si rincorrono ed uno l'aveva previsto. Da questa esperienza religiosa è venuto il paradigma agostiniano della storia, tessuta da una curva concava ad U, che giustifica la speranza. E tanto l'ha giustificata da provocare quel processo di conquiste scientifiche e tecnologiche che premia davvero piuttosto l'ingordigia animale che la fratellanza eticamente fondata. La norma etica non dice nulla a chi è sazio di beni materiali. I proverbi sia cinesi che biblici sono pieni di questo avvertimento. È un'esperienza antichissima di tutti i popoli, serpeggiante in tutte le religioni. Tutte, perciò, sono in allarme di fronte allo spettacoloso sfruttamento contemporaneo delle risorse terrestri che accompagna il soffocamento della vita nei suoi germogli. Grande attualità acquista oggi il dialogo interreligioso e probabilmente sarà questo una delle principali tematiche del futuro prossimo della religione, da lui tradizionalmente cristocentrico e quindi messianico. Poi con l'indiano Panikkar esso tende a diventare regnocentrico, con tanti cristi possibili, e con Knitter, sensibile alla prospettiva buddista, diventare semplicemente soteriocentrico, una salvezza, soteria, senza fede, dunque, completa la visione siloniana di una speranza senza Dio. Ma il pensiero speculativo, che pure è sempre nelle nostre coscienze, come postulato almeno, che è organizzatore di concetti, approverà questi saggi opportunismi? Ad vesperascit si fa sera, diceva a Pasqua, ma chi ha detto che questa sia veramente l'ultimo tramonto, anche se le statistiche che ci capitano nelle recenti ricerche sotto mano ti lasciano veramente storditi? Dei 400 miliardi di cellule del cervello umano, dell'Homo sapiens due volte, ne utilizza ora soltanto meno di un quinto e in media lo utilizza solo per un terzo delle sue giornate. Eppure ogni giorno è diverso e la diversità è una sferzata che fa male perché costringe a cambiare se stessi, mentre preferiremo sempre, ma poco religiosamente, che cambino gli altri. Quando le ombre si allungano a vespro, la luce si fa più nostalgica e si diventa probabilmente più umani, più pii, perché si riflette di più. Il futuro potrebbe anche rivelarci più autentici. Invito ora il professor Burgalassi ad offrire il saluto a nome della sezione Sociologia della Religione dell'Associazione Italiana di Sociologia e a ricordare un amico comune scomparso di recente in modo tragico. Cari amici, probabilmente la mia qualifica e la mia età mi consentono di fare qualche piccolo flash che non vi annoi all'inizio di questi lavori, perché finora hanno parlato tre ecclesiastici e mi veniva a mente il destino delle cose. Perché abbiamo ecclesiastici che fanno teologia, abbiamo ecclesiastici che fanno sociologia, stiamo aprendo una stagione di laici che faranno sociologia e teologia. E io mi auguro che il laico si riappropri, insieme all'ecclesiastico, si intende, del campo teologico che le è proprio. Weber diceva che una delle più grosse iatture della nostra epoca è aver riservato il campo teologico solo agli ecclesiastici. E allora penso al futuro, in cui la qualifica laico-ecclesiastico non giocherà più in riferimento al tema, ma penso al passato in cui questa qualifica ha giocato, le difficoltà per i sociologi di essere ecclesiastici sono notori, e le difficoltà degli ecclesiastici di essere sociologi sono altrettanto note. Le abbiamo superate, oggi mi sembra che non si fa più questione di questo, e già il convegno che era auspicato da tempo che questo centro ha organizzato ne è una prova. E vorrei soltanto ricordare che probabilmente stanno sparendo sia la concezione della filosofia come ancilla della teologia, sparite da tempo, sia la concezione della sociologia come sintesi metafisica, ormai Conte è un ricordo storico, ma sta facendosi strada un concetto che non sa più dare risposte né nell'una direzione né nell'altra direzione, e allora la storia ci può suggerire di non ripetere errori del passato e di essere molto cauti nell'intravedere il futuro. Ringrazio il professor Burgalassi di quanto ha detto, ma soprattutto ringrazio il professor Achille Ardigò, presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, e monsignor Eugenio Roger, direttore dell'Istituto di Scienze Religiose all'interno appunto dell'ITC, che hanno consentito questo incontro. Da parte mia solo alcune osservazioni tecniche e il senso del nostro dibattito oggi. È un confronto non tra sociologia e teologia, due scienze teoriche tra di loro, ma tra persone concrete, sociologi e teologi, quindi è un evento sociale, relazionale, direbbe un collega illustre, all'interno del quale due categorie di persone si confrontano con un comune tertium. E secondo l'ipotesi della psicologia sociale espressa da Helport nel suo trattato sul pregiudizio, quando due gruppi si confrontano con un comune tertium, in concreto per noi è il problema del futuro, della proiezione, emergono elementi di convergenza o elementi di divergenza. Il senso del nostro dibattito è proprio quello di offrire un'occasione affinché sociologi e teologi con le loro rispettive competenze scientifiche si confrontino su un terreno comune in modo che emergano elementi di convergenza o di divergenza che verranno poi sintetizzati anche in termini empirici, scritti, insomma, e offerti ai relatori al convegno come input affinché nelle loro relazioni possano approfondire ancora la tematica o arricchirla dal loro punto di vista. Ecco, ma comunque è un input che ovviamente va anche al di là di una semplice preparazione. Questo è l'obiettivo. I relatori del convegno sono 10, avete il programma del convegno, 6 sono presenti, agli altri sarà inviato il frutto del nostro dibattito. Strumento di lavoro è questo libretto rosso, rosso perché parlando di futuro da noi si dice rosso di sera buon tempo si spera. È uno strumento di lavoro semplice, ricco, come diceva Roger, di citazioni bibliografiche, ma in realtà povero di citazioni bibliografiche, nel senso che ci sarebbero altre cose da dire e da segnalare. Qual è stato il criterio che ho privilegiato nello stenderlo, valorizzare tutti gli elementi scritti, i contributi scritti che mi sono arrivati da quando 6-7 mesi fa ho mandato il primo invito a collaborare. Ringrazio chi mi ha scritto, ma soprattutto ringrazio le persone presenti, perché la vostra presenza consente appunto di arricchire quel dibattito che nel dossier risulta ancora carente sotto diversi punti di vista. È comunque uno strumento di lavoro. Quindi privilegiare i contributi scritti che sono arrivati e poi privilegiare le persone che non sarebbero state presenti oggi, quindi in particolare la letteratura internazionale ed altre persone che non sarebbero state presenti, proprio perché le persone presenti potessero direttamente offrire il loro contributo. E tutti sono invitati a partecipare sotto la direzione di due chairman di lusso, il professor Costantino Cipolla questa mattina e nel primo pomeriggio il professor Burgalassi, i quali avranno il compito di orientare il dibattito e appunto di far emergere convergenze e divergenze a tutti i livelli, prendendo lo spunto dai quattro interrogativi chiave: due stamattina, che futurologia oggi è possibile, qual è il futuro della religione; due nel primo pomeriggio, il futuro del cristianesimo, l'ipotesi del post-cristianesimo; e la quarta domanda, riflessi per la teologia, in particolare per l'ecclesiologia, quindi il futuro della Chiesa, come De Marchi ha sapientemente messo in luce. Trovate nella cartella che le segretarie hanno preparato, e le ringrazio di questo, anche l'elenco di tutti i partecipanti. Il professor Ardigò è impegnato altrove, comunque è rappresentato da Monsignor Roger. Roberto Cipriani è impegnato altrove, ha detto di salutare tutti. Clemente Lanzetti ha mandato un fax ieri sera, ha detto di salutare, ma comunque causa malattia non può venire. Arnaldo Nesti ha detto di salutare, è impegnato a Firenze, e gli altri dovrebbero esserci. Tra i teologi, Severino Dianis, relatore al convegno, ha mandato un testo per questo incontro che trovate in cartella, purtroppo è impegnato a Pisa. Giannino Piana aveva detto in primo tempo che sarebbe venuto, impegnato a Novara. Monsignor Luigi Sartori, che è diciamo il presidente del comitato scientifico dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento, per cui è il referente primo del nostro convegno, ha detto di salutare. Comunque ha organizzato un incontro sul dossier per i docenti della Facoltà Teologica di Padova il 23 marzo prossimo, quindi non è presente, ma ha detto di salutare. Pier Sandro Vanzan della Civiltà Cattolica, in un primo tempo anche lui sarebbe stato presente, di fatto poi ha mandato un fax che per motivi di salute non può esserlo. Ci sono infine anche alcuni filosofi, quindi l'incontro non è proprio a due, ma insomma le squadre sono due, poi c'è il terzo incomodo, la filosofia, che effettivamente è una ricchezza per tutti. Ecco, io mi auguro che anche i filosofi, che sono praticamente i filosofi afferenti al nostro istituto, possano partecipare attivamente a questo incontro. No, è davvero un grazie che io esprimo per la loro partecipazione, e hanno dato un contributo diretto anche, come avete visto, alla stesura del dossier. Gli interventi dovrebbero essere, non so, 10 minuti. Chi viene utilizza il microfono per intervenire, perché tutto il lavoro è registrato, e se può appunto far precedere il proprio nome, comunque, in modo da aiutare anche la decodificazione di quanto detto. Ringrazio di nuovo tutti per la partecipazione, la parola senz'altro al professor Cipolla.